Credo che Santa Rita sia una santa universalmente amata, anche se pure con lei, come per tanti altri santi, frequentemente anche noi o comunque il popolo fa un errore. Cerca i santi per chiedere miracoli e grazie. Da una parte è anche giusto, perché loro stessi l'hanno detto, che dal cielo avrebbero sparso tante grazie sulla terra. Qualcuno, mi sembra Padre Pio, diceva: farò più rumore dopo la mia morte che prima. Il Signore e la Chiesa ci danno i santi da amare e da venerare anche per essere da loro aiutati, ma la prima cosa che è da chiedere è di imitarli nella loro fede e nella loro vita di carità. Anche se tante volte dobbiamo ispirarci più che imitarli e copiarli, perché non ce la facciamo. Come si fa a copiare Madre Teresa? Ma come si fa a copiare Padre Pio? Come si fa a copiare Santa Rita, Santa Caterina? Però ispirarci, guardare a loro e pregare Dio che ci doni la loro fede, questo sì. Perché la grandezza proprio di Santa Rita è proprio in questa, nella sua fede. Conoscete tutti la sua vicenda, no? Anche se io credo che varrebbe la pena leggere e approfondire la vita dei santi, perché è una miniera con tanti filoni di metallo prezioso inesplorati. Dopo che si è sposata a 18 anni e ha avuto due figli, è rimasta vedova perché le hanno ammazzato il marito per una faida politica, di potere. E la sua famiglia, compresi i due figli, volevano coinvolgerla nella vendetta. Ricordiamo tutti che lei ha detto: Signore, ti offro questi due figli, ma che non entrino in questo gioco perverso. E il Signore se li è presi, forse di peste, prima che potessero essere coinvolti nella faida. Allora lei chiese di diventare monaca presso le suore agostiniane, ma non la volevano, perché hanno detto: no, no, non ci portiamo mica in convento una che scotta, perché sei coinvolta in una faida tra famiglie potenti. Se vuoi entrare devi fare la pace con loro. E lei, pensate, pur essendo parte lesa, si è prestata, si è abbassata a fare pubblicamente la pace con un atto del notaio. Non bastava che dicesse: miei figli se li ha presi Dio, io vi perdono. No, no, un atto del notaio tra la sua famiglia e quelli dell'assassino del marito. Quindi grande donna di pace, disposta a pagare il prezzo. Ecco perché dobbiamo guardare ai santi, amici, perché le nostre piccole beghe svaniscono come nebbia al sole di fronte a questi gesti. Qual è la famiglia che non ha al suo interno delle beghe familiari, dal piccolo al grande, e non siamo capaci di perdonare? Questa non solo perdona, ma fa la pace. Pensate che umiliazione di fronte a tutta la città. E allora viene accolta in monastero, ci resta per 40 anni. E che cosa fa? L'imitazione di Cristo crocifisso. Una vita quotidiana di devozione, di pazienza, di sacrificio, la vita quotidiana. E piacque così tanto a Dio che anche a lei Dio le riservò un trattamento speciale, la rese simile a sé dandole una piaga. Guardate che questo si ripete, mica solo San Francesco, mica solo Padre Pio, Sappiamo che anche Santa Caterina da Siena ebbe delle stigmate invisibili, ma reali. E la storia della Chiesa ne ha tante di persone così. Anche lei ebbe una piaga qui nella fronte, come una spina di Gesù che gli rimase questa piaga per 15 anni. E io non ho mai capito, non ho mai apprezzato Santa Rita, da superbo che ero, come certi maschi, certi preti. Quando sono andato a visitare Cascia e la sua casa natale e la sua cella, ho scoperto tante cose e mi sono innamorato di questa santa. E ho scoperto, per esempio, che questa piaga, questa faceva pus, che puzzava, e le sue consorelle non volevano stare vicino a lei per il fetore che emanava questa piaga. Noi vediamo gli stigmatizzati e pensiamo: ah, l'onore, l'onore. Sì, ma Padre Pio aveva dolore, dolore, dolore. E questa dolore e umiliazione. Credo che per tutta questa sua fede, questo suo abbassarsi, la sua vita, abbia meritato quel titolo, la Santa degli Impossibili. E a me è piaciuto vedere una sua immaginetta con scritta una frase attribuita a lei, che sia vera, che non sia vera, ma che mi ha fatto capire cosa vuol dire la Santa degli Impossibili. Signore, dammi tanta fede da poter chiedere a te cose impossibili. Ah, bella, eh? Dammi tanta fede da poter chiedere a te cose impossibili. Signore, ti ringraziamo per questi capolavori che tu ci fai conoscere, che sono i santi, e ti chiediamo, con il loro aiuto, con la loro intercessione, di attirare anche noi sulla stessa strada di santità.